Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta questa sera un documentario che riporta i lavori di ricerca sulla prossima colonia spaziale di Marte. Il pianeta rosso è da sempre meta di fantasie e studi di tutti i più grandi ricercatori. E ora tutto questo sembra diventare realtà. Ecco le tecnologie, i pericoli e le meraviglie della futura vita su Marte. È l'alba del 23° secolo e l'uomo ha creato una colonia su Marte. Non è stato facile. Qui noi siamo degli intrusi. E il pianeta rosso ci ha dichiarato guerra sfruttando tutto il suo arsenale. Radiazioni mortali, aria rarefatta e letali tempeste di sabbia. Qui la vita è una lotta continua per la sopravvivenza. Ma allora perché vivere nello spazio? Non sono solo le giornate di 25 ore e la composizione simile delle stagioni che rendono il quarto pianeta dal Sole la destinazione ideale dove l'umanità possa creare la sua seconda casa nel cosmo. C'è una risorsa in particolare che fa di Marte il principale candidato per la nostra futura colonia. Mikio Kaku, autore di Physics of the Impossible. Una delle prime missioni per i nostri astronauti è di procurare energia. E una forma di energia si trova proprio sotto i loro piedi, nel permafrost. Nel sottosuolo di Marte c'è acqua ghiacciata. Possiamo purificarla per renderla potabile. Inoltre possiamo separarla in ossigeno e idrogeno per creare carburante per razzi o per creare pile a combustibile che forniranno energia alla nostra colonia marziana. La colonia è un prodigio dell'ingegneria. Sono state prese in considerazione varie ipotesi per l'insediamento marziano permanente, compreso un ambiente sotterraneo. Ma alla fine, per il progetto della colonia, ha prevalso l'idea più familiare e antica. John Spencer, architetto. Le cupole sono strutture ideali per ambienti estremi come il deserto, o nel caso specifico Marte. E la ragione è che offrono il massimo spazio chiuso con la minima quantità di struttura e massa. Inoltre sono molto robuste. La base somiglia più a una metropoli. Questa oasi high-tech nel bel mezzo del deserto marziano è costruita come una fortezza. Ancora John Spencer. Il materiale che useremo deve essere in grado di resistere al freddo e anche alle radiazioni. La superficie di Marte viene sferzata e sterilizzata dall'impietosa luce solare perché il pianeta non ha una fascia protettiva di ozono. Alcuni materiali come la fibra di vetro e il plexiglass dovranno essere rinforzati. A questo scopo all'interno dei cristalli saranno piazzate delle barre per ottenere una struttura che sia forte abbastanza per resistere alle enormi sollecitazioni e temperature estreme del pianeta rosso. La temperatura e la pressione all'interno della cupola devono essere rigorosamente regolate. Se il calore è eccessivo, la pressione dell'aria in espansione all'interno farebbe esplodere l'ambiente come un pallone sonda troppo gonfio. Kerry Mitchell, Purdue University. La Terra è una unità astronomica dal Sole. Marte invece dista circa un'unità e mezzo, quindi è mezza volta più distante dalla nostra stella. Lassù la luce solare è più fioca e il cielo su Marte non è così azzurro, è rosso, a causa della polvere ossidata sospesa nell'aria e dei venti che soffiano di continuo. Per rendere questo mondo alieno più accogliente, i nostri viaggiatori hanno portato con loro degli ecosistemi artificiali. Ma le piante non hanno solo scopi ornamentali. Svolgono una funzione vitale. Creano e sostengono l'habitat in un ambiente chiuso. Ancora Kerry Mitchell. Su Marte non faremo crescere solo cibo. Dalle piante otterremo anche l'ossigeno che respireremo. E le piante riceveranno il biossido di carbonio di cui hanno bisogno. In questo senso è una splendida sinergia tra esseri umani e vegetali. Questa relazione simbiotica è riflessa in ogni aspetto della vita su Marte. Come in un acquario sulla Terra, qui ogni risorsa viene riciclata. David Brin, scrittore di Le Maree di Kitrap. A differenza di un acquario, non saremo in grado di continuare a importare riserve fresche di acqua marina e di aria. I nostri discendenti che vivranno nello spazio dovranno diventare maestri nell'arte del riciclaggio, dovranno creare ambienti autosufficienti, cicli di supporto vitale ecologici che riciclano tutta l'acqua e tutta l'aria. Nel XX secolo non esiste ancora una conoscenza approfondita degli effetti che può avere sugli esseri umani la vita in un ambiente isolato dal mondo esterno. A questo proposito viene effettuato un test nel deserto dell'Arizona, nei pressi di Tucson, in una struttura chiamata Biosfera 2. Il suo scopo originario, tra le altre cose, è di verificare la praticabilità di una colonia autosostenibile su un altro pianeta. Biosfera 2 è un insieme di 5 differenti ecosistemi o biomi, ognuno dei quali ripropone un diverso ambiente della Terra. Questo ambizioso progetto viene avviato con la prima missione del 1991, ma ben presto sorgono gravi problemi. A un certo punto l'equipaggio inizia ad effettuare scelte scriteriate e si divide in fazioni rivali. L'intera missione sembra ormai a rischio quando si scopre che a far scattare la belligeranza degli abitanti è la mancanza di ossigeno. Il cemento all'interno della struttura non si è asciugato a dovere. Di conseguenza assorbe molto più ossigeno di quanto le piante riescano a produrne. La percentuale di aria respirabile raggiunge livelli pari a quelli riscontrabili a un'altezza di 5.000 metri. Alla fine, su Biosfera 2 è necessario pompare aria dall'esterno. Ma sulla nostra intrepida colonia marziana una situazione del genere non è possibile. Una piccola svista come quella del cemento sarebbe fatale. Nonostante i rischi impliciti, l'ambiente sigillato della cupola è il più sicuro su Marte. Ma a volte i coloni devono abbandonare la sicurezza della colonia e uscire all'esterno. Su Marte sta sorgendo l'alba. Alcuni coloni si avventurano all'esterno della cupola per svolgere le manutenzioni e i compiti previsti per la giornata. Nel trasferimento attraversano le sterminate, desolate pianure del pianeta rosso. Per svolgere efficacemente la loro missione, i terrestri hanno bisogno di un mezzo che permetta di spostarsi anche a grandi distanze. Il rover usato sulla Luna per le missioni Apollo, in pratica, non era altro che un dune buggy potenziato. Ma su Marte c'è molta più strada da fare. Tuttavia, Marte è un pianeta vasto e per perlustrare i suoi angoli più remoti, gli scienziati della nostra colonia devono viaggiare più comodi. Piuttosto che dover restare in un ingombrante scafandro per ore intere, è preferibile lavorare in tuta. Questo è possibile solo muovendosi in un ambiente dotato di una pressione atmosferica simile a quella del loro pianeta, la Terra. Ed è qui che entra in gioco il piccolo rover pressurizzato. Il piccolo rover pressurizzato, o SPR, non è molto più grande del rover dell'Apollo e ha una velocità massima di circa 9 km orari. L'SPR può svolgere missioni di durata variabile tra i 3 giorni fino alle 2 settimane e può coprire distanze superiori agli 800 km. Alcune caratteristiche lo rendono ideale anche come mezzo di trasporto. All'esterno del piccolo rover pressurizzato sono agganciate due tute spaziali. I passeggeri all'interno del veicolo possono infilarsi nelle tute da un portello posteriore ed essere pronti a passeggiare sulla superficie del pianeta in appena 10 minuti. Radio Doc. Ben ritrovati a Radio Doc. Continuiamo con la seconda parte del documentario sulle ricerche che porteranno a costruire una vera e propria colonia spaziale su Marte. Gli astronauti incontreranno molte difficoltà tecnologiche sul pianeta rosso. Per questo, la priorità dei ricercatori è rendere più sicura possibile la spedizione, a cominciare dall'equipaggiamento. Una tuta spaziale difende il fragile essere umano dalle numerose minacce dello spazio. Oltre a soddisfare tutti i bisogni di un essere umano, una tuta spaziale deve anche proteggerlo di continuo dai pericoli dell'universo. Un'arma letale nell'arsenale marziano sono le frequenti piogge di micrometeoriti, meteore di piccole dimensioni capaci di bucare la tuta e causare una morte orribile. L'isolamento con strati di neoprene e Kevlar è fondamentale per mantenere l'astronauta al sicuro dalle minacce di questo insidioso pianeta. Indossare un sistema di supporto vitale significa portare un indumento tozzo e ingombrante. Un astronauta della Stazione Spaziale Internazionale può impiegare fino a 3 ore per indossare una MMU, un'unità di manovra. Questo comprende altri 30 minuti di adattamento all'ossigeno puro che dovrà respirare. Ma l'MIT e gli scienziati, con l'aiuto della robotica, stanno creando una tuta spaziale più pratica, che sembra uscita da un album di fumetti. Il sistema di supporto vitale per la biotuta è modulare, il che lo rende molto più confortevole rispetto a quello attuale, molto ingombrante. Un rigido guscio toracico la collega allo zaino che contiene il sistema di supporto vitale. Il visore dell'elmetto sarà placcato in oro come quelli delle tute spaziali attuali per schermare la luce accecante del sole. L'elmetto conterrà anche un head-up display, o HUD, che trasmette informazioni vitali all'esploratore. Ma a prescindere dal tipo di tuta spaziale usata, camminare su Marte non sarà una passeggiata. I coloni avranno anche l'aspetto di supereroi, ma non hanno superpoteri. A volte dovranno affidarsi a un aiutante meccanico, il Robonauta. Col suo sistema operativo di telepresenza, il progetto Robonauta combina la forza della meccanica all'ingegno umano. Il robot può anche operare in modo indipendente, sfruttando la propria intelligenza artificiale per portare a termine compiti preprogrammati. In luoghi in cui gli esseri umani non osano mettere piede, dimensioni e forma del Robonauta sono cruciali. Per esempio, il Robonauta potrebbe essere usato per sostituire gli astronauti in compiti di routine relativi alla gestione della colonia. Ma il Robonauta non è un semplice tecnico. Le sue qualità sono cruciali per il successo della missione. Come il rover, il Robonauta è alimentato da una batteria a ioni di litio a energia solare. Ricaricare una macchina è piuttosto semplice, ma alimentare gli esseri umani sarà molto più complesso. Sui coloni incomberà di continuo il rischio di carestia. E se il precario equilibrio salta per qualche motivo, la fine è inevitabile. Per i nostri intrepidi coloni marziani del futuro, soddisfare anche i minimi bisogni essenziali è molto difficile. Prendiamo il bisogno più elementare di tutti, il cibo. A causa dei costi proibitivi del trasporto di tonnellate di cibo preconfezionato, ogni pioniere marziano che si rispetti sarà anche un po' contadino. Ma coltivare piante su Marte non è così semplice come piantare un seme e annaffiarlo ogni tanto. Il suolo marziano, la regolite, è una risorsa inaffidabile. Anche la minima traccia di materiale tossico può uccidere le colture all'istante, condannando la colonia. Per coltivare delle piante non si può fare affidamento sul terreno marziano. Una serra marziana è una camera per la crescita controllata, un ambiente che assicura alle piante 5 fattori cardinali necessari alla loro crescita. Kerry Mitchell, Purdue University. Hanno bisogno di luce, della giusta temperatura, di acqua, di nutrienti e hanno bisogno di un'atmosfera, biossido di carbonio e ossigeno. Quindi, con una camera di crescita, in un habitat, si può coltivare tutto l'anno. In gran parte si tratta di colture idroponiche, ovvero sono colture ad acqua. Le piante coltivate in questo modo non hanno bisogno di terreno, crescono in un bagno di nutrienti sospesi in acqua. Ma per vivere, le piante hanno anche bisogno di luce e di spazio, che su Marte scarseggiano. I ricercatori hanno aggirato questo ostacolo negli angusti confini di una fattoria spaziale con l'uso di sorgenti luminose fredde, i LED, impostati su sfumature dello spettro che stimolano la crescita delle piante. La luce solare di Marte consente alle piante di produrre ossigeno, mentre questo tipo di camere di crescita provvedono al cibo. Ma Ma sulla Terra è presente un fattore fondamentale per la crescita di vegetali che su Marte manca. Ed è qualcosa a cui nemmeno la tecnologia può rimediare. Ancora Cary Mitchell. C'è una gravità che è appena 3/8 di quella terrestre, quindi sulle piante ci sarà meno attrazione. Sulla Terra la gravità allontana l'acqua dalle radici, permettendogli di assumere ossigeno. A gravità ridotta, l'acqua non scorre in modo efficiente, il che impedisce alle radici di assorbire aria e nutrienti. Potrebbero avere la tendenza a crescere più deboli. Ma che tipo di piante coltiveranno i nostri contadini spaziali? Patata e lattuga, tanto per cominciare. Considerando tutti questi ingredienti, ecco il menù tipico di un colono marziano. Per colazione, uova strapazzate e frittelle di patate. Il pranzo è un sandwich, pane di soia e funghi portobello con un contorno di fragole. Pasta con salsa marinata per cena, insalata e torta di patate dolci per dessert. Mantenere l'equipaggio sano e forte è essenziale quando una normale giornata di lavoro richiede sforzi sovrumani. Come, per esempio, sfruttare le enormi ricchezze che galleggiano appena al di là dell'orizzonte marziano. L'allestimento di una spedizione a lungo termine su Marte ha costi astronomici. Ma in realtà i ricavi più allettanti si trovano oltre, in una riserva di risorse pregiate ancora da sfruttare, che galleggiano letteralmente proprio sopra il pianeta rosso. Mikio Kaku, autore di Physics of the Impossible. La più grande fonte di meteoriti sul pianeta è la fascia degli asteroidi. E scopriamo che circa l'85% di loro è composto soprattutto da silicio, come nel caso della superficie terrestre. Ma un 5% contiene anche ferro. Potremmo usarlo per produrre acciaio, per creare strutture, costruzioni e città, persino una civiltà. Lo sfruttamento degli asteroidi semplifica il processo di assemblaggio ed espansione dell'avamposto marziano. Per costruire nuove strutture e astronavi e per mantenere ed aggiornare quelle vecchie, si utilizzano minerali grezzi provenienti dalla fascia degli asteroidi. Ma c'è un'altra ragione per scavare su questi enormi massi spaziali. David Brin, scrittore di Le Maree di Kitrap. Se si fondesse un asteroide lungo 1 chilometro, parlo di una stima approssimativa, otterremmo tutta la produzione mondiale di acciaio di un anno. Tutto l'oro e l'argento prodotto nell'arco di 10 anni, tutti gli elementi appartenenti al gruppo del platino prodotti in migliaia di anni. Quindi, se serve una motivazione, basta pensare a tutte queste ricchezze. Un asteroide con un diametro di circa 1 chilometro avrebbe una massa pari a 2 miliardi di tonnellate. Un peso è equivalente a 20.000 portaerei di classe Nimitz. Un asteroide di queste dimensioni potrebbe contenere una quantità di nickel, cobalto e platino del valore di più di 110 miliardi di euro. E sarebbe relativamente piccolo. Alcuni si avvicinano alle dimensioni di un vero e proprio pianeta. Ma scavare un'enorme roccia nel vuoto dello spazio non è affatto semplice. Forse è meglio lasciare questo compito a elementi dalla fibra più robusta. Ancora David Brin. Siccome la fascia di asteroidi è così distante, circa 480 milioni di chilometri, potremmo dover ricorrere a robot. I robot sono relativamente economici, non richiedono supporti vitali e non devono tornare indietro. Per la prima colonia interplanetaria, affiancare agli astronauti dei robot umanoidi è l'unico modo per ridurre i rischi, aumentando le possibilità di sopravvivenza. Per il resto, la vita su Marte sarà un'avventura estrema. In tutti i sensi. Per ora, la vista di una colonia funzionante su Marte è solo finzione. ispirata al meglio della scienza del XXI secolo. Ma probabilmente un giorno potremo vedere cittadelle marziane a forma di cupola. E i nostri vicini galattici non saranno piccoli omini verdi. Saranno uomini come noi. Prima di chiudere, vi segnaliamo che potrete vedere su History Channel la versione integrale del documentario prodotto da AETN martedì 27 ottobre alle 11.30. Un ringraziamento in redazione a Manuela Sicuro. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.